Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Comprare online passeggiando per le corsie di un supermercato, gli spazi di un negozio o addirittura le gallerie di un centro commerciale è possibile grazie alla realtà virtuale che trova sempre più applicazioni in ambito retail. Il commercio del futuro è già realtà. Dai visori per la realtà virtuale alle stampanti 3D, anche questo strumento ipertecnologico esce dai laboratori e guarda al mondo dei consumi e della manifattura sulla scia di una nuova alleanza tra FabLab e Coworking. Succede a Milano. Focus sui trend dedicato infine a cibo e comunicazione, dagli scontrini al packaging, i nuovi format per i brand. Benvenuta, Anna. Di cosa hai bisogno? Ciao, Super. Dovrei prendere un po' di pasta. Allora, dunque, vediamo. Ah, oh, sì, eccola lì. Oh, accidenti, ma stasera c'è anche Lucia a cena, che è intollerante al glutine. Mostrami solo i prodotti senza glutine, per favore. Anna, ho attivato il filtro glutine per questo scaffale. Adesso però mi serve uno shampoo. Questi sono quelli consigliati dalle tue amiche. Bravo, Super! A che ora sarai a casa nel pomeriggio? Dalle 5 in poi. Perfetto, buona cena! Grazie, Super! Magari la prossima volta ti invito, eh? Il video lo trovate sulla nostra pagina Facebook, racconta Shelf Zone, il supermercato virtuale creato dalla startup italiana Inversion. Grazie alla realtà virtuale ci permette di acquistare online, ma vivendo l'esperienza in prima persona, come se ci trovassimo sul posto, spingendo il carrello lungo le corsie e sporgendo il braccio, per esempio, per prendere i prodotti dallo scaffale. Uno scenario futuristico molto più vicino di quanto si pensi, come ci conferma Matteo Esposito. Shelf Zone è un simulatore di supermercati in realtà virtuale. Oggi è un prodotto che abbiamo pensato per l'industria, quindi distribuzione, grandi marche, per simulare un supermercato e studiare i comportamenti del consumatore attraverso la realtà virtuale. Quindi possiamo mettere in una stanza di 4 metri per 4 un intero supermercato e studiare che cosa fa un panel all'interno della sua spesa virtuale. Il futuro di questa tecnologia secondo noi è l'e-commerce, e quindi quando i caschi di realtà virtuale, gli occhiali della realtà virtuale arriveranno in tutte le case, e pensiamo che sia una cosa inarrestabile che avverrà nei prossimi anni, ma o anche l'anno prossimo, noi saremo pronti ad avere uno strumento per andare nel supermercato da casa e fare la spesa con un casco in testa. Dal proprio divano di casa si potranno scegliere i prodotti dallo scaffale e poi, grazie appunto alla dimensione virtuale, anche filtrare i prodotti sotto vari aspetti, gli ingredienti, le etichette, le destinazioni d'uso? Sì, esatto. L'idea è quella di replicare tutta la comodità, la praticità della tecnologia e-commerce, ma ritrovando quella motivazione che ci spinge a fare shopping, che è il divertimento. A me personalmente piace andare a fare la spesa, qualcuno lo trova una cosa noiosa, ma io mi diverto. L'idea di fare la spesa in un luogo che io riconosco, magari in un'insegna che già frequento e che quindi conosco, all'interno della quale mi so orientare, ma di avere anche tutti i vantaggi dell'e-commerce, quindi poter filtrare prodotti, poter vedere anche magari prodotti che in un supermercato sarebbe scomodo vedere. Noi abbiamo fatto un esempio di un car configurator all'interno di una corsia dove del materiale di marketing d'impulso mi permette di prendere una piccola macchina e farla diventare grande, guardarla e prenotare un test drive. Ecco, penso che questo sia qualcosa di divertente che possa rivoluzionare l'e-commerce, che sta diventando da un certo punto di vista un po' noioso. E poi grazie all'internet delle cose, per cui insomma in un futuro più o meno vicino tutti gli oggetti della nostra casa saranno connessi tra loro e connessi alle nostre realtà digitale, quindi anche agli account dei nostri profili e-commerce, magari verificare che nel frigorifero manca quell'ingrediente e inserirlo automaticamente nella lista della spesa. Sì, assolutamente. L'idea è quella, non solo di avere degli strumenti a casa che mi dicono che la dispensa è vuota e che devo recuperare un ingrediente che non ho più, ma anche la possibilità di interrogare magari un'intelligenza artificiale per sapere quali sono gli ingredienti di una ricetta, oppure al contrario è l'intelligenza artificiale che potrebbe accorgersi di un nostro tentennamento e suggerirci delle cose. Nel video si vede questa ragazza che a un certo punto non sa cosa scegliere e su una base di ciò che hanno scelto le sue amiche, il supermercato le suggerisce di comprare un certo shampoo. Ecco, questa riteniamo che sia un'applicazione di intelligenza artificiale che si possa sposare bene con il supermercato del futuro. Quanto è vicino questo scenario alle abitudini quotidiane? Ma io penso che la realtà virtuale sia oramai una tecnologia inarrestabile. Troppi player ci stanno investendo grandi somme, il mondo dei social ci è entrato con Facebook, ci sono grandi aziende della tecnologia come Google, ma anche aziende dell'entertainment come Disney che stanno facendo grandi investimenti. I caschi della realtà virtuale stanno uscendo uno dopo l'altro quest'anno, e in autunno vedremo quello della Sony. Noi in questo momento usiamo HTC Vive, usiamo Oculus Rift, usiamo Samsung VR, tutti i device che stanno uscendo quest'anno, quindi noi ci aspettiamo che l'adoption a livello di massa arrivi l'anno prossimo e negli anni successivi ci sia un po' il boom di questa tecnologia, un po' come lo è stata quella degli smartphone qualche anno fa. La realtà virtuale sta arrivando un po' su tutti i fronti, soprattutto nell'entertainment, quindi si parla di videogames, si parla di cinema, si parla di live negli sport, negli eventi, quindi applicazioni domestiche di tipo entertainment saranno quelle più diffuse. Noi abbiamo deciso di fondare una startup più orientata al business, concentrandoci sul mondo del retail, dell'automotive e del real estate. Questa è la nostra scelta, però la realtà virtuale secondo me arriverà un po' in tutti i campi. Ci spostiamo a Milano, dove il mondo dei Fab Lab, le officine per la fabbricazione digitale, i templi delle stampanti 3D e dei makers, questo mondo, dicevamo, si allea con quello dei coworking. Succede al Talent Garden Milano Calabiana, uno degli spazi di coworking più grandi d'Europa, dove ha aperto il nuovo The Fab Lab. Per fare cosa ce lo spiega Massimo Temporelli. Per fare quello che sa fare molto bene Talent Garden, rete, business e innovazione. Cioè, noi vorremmo imparare da loro cose che sappiamo già fare ma che crediamo loro sappiano fare meglio di noi, cioè quello veramente di allargare quel concetto di innovazione, portarlo fuori dall'ambito dell'innovazione. Sembra una contraddizione, no? Cioè è come se ci fosse una community di maker che lavora e parla a se stessa, che va benissimo, è giusto così, le maker fanno il loro lavoro, i Fab Lab italiani hanno fatto una grandissima operazione anche economica per far capire a tutti cos'è, ma adesso è ora che queste aziende, ormai chi ce l'ha fatta è diventata un'azienda, parlino con il tessuto industriale. Talent Garden lo sta facendo, ha firmato accordi con Poste Italiane, qui dentro c'è IBM, c'è Cisco, insomma le grandi aziende si sono rese conto di cos'è un coworking. Quello che noi speriamo è, con le nostre capacità, le nostre competenze e la nostra energia, dimostrare al mondo industriale italiano che anche noi potremmo essere utili a loro quanto lo è Talent Garden. Ci sono macchine più grosse, più costose, non solo autocostruite dalle persone, ma macchine industriali che possono essere condivise a ora, a giorno, a pomeriggio, dalle aziende che sanno che hanno una marcia in più con noi. Cioè, noi lavoriamo agilmente con Emiliano Ponzi o Olimpia Zagnoli, famosissimi illustratori apprezzatissimi all'estero, così come il commerciante che vuole customizzare, personalizzare le scarpe in cuoio per i suoi clienti in un negozio di Pavia, fino alla multinazionale che ci chiede una consulenza. Ecco, dove non può entrare la digital fabrication? Credo veramente, basta con la fantasia, non ci sono limiti, credo, nel mondo della digital fabrication, perché ognuno di noi usa delle cose. Quelle cose possono essere personalizzate e vendute in modo nuovo. Quindi largo spazio alla fantasia e quindi al business e quindi alle aziende che collaboreranno con noi. Dagli scontrini con l'indice salutista della nostra spesa alle bottiglie che diventano manubri da palestra. Il cibo guida l'innovazione nella comunicazione. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. Essere e avere. Mortadella è comunista. Salame socialista. Prosciutto democristiano. La coppa liberale. Le salsicce repubblicane. Prosciutto cotto e fascista. Focus sui trend. Cibo e comunicazione, il tema del focus sui trend di questa settimana. Da oggetto di consumo, il cibo è diventato soggetto di comunicazione alla ricerca di nuovi format per i brand di settore, ma non solo. Ne parliamo, ci facciamo raccontare tutto da Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata. Ciao a te, un saluto a tutti. Da dove partiamo? Partiamo dagli scontrini nutrizionali. Un'idea di un designer, Aidan Peake, un designer inglese, per rispondere alle epidemie di obesità e per fare formazione e informazione anche sugli scontrini del supermercato, utilizzando la stessa grafica che mostra le informazioni nutrizionali degli alimenti, ma in modo un po' iconico, divertente, colorato. Questa idea del progettista suggerisce di utilizzare il sistema simile alle linguette colorate che si trovano sulle confezioni dei supermercati, ma in questo caso i dati nutrizionali verrebbero conteggiati e trasferiti sugli scontrini, in modo che ogni persona possa avere una panoramica di quanto sia sana la propria spesa. Vengono presentate 5 schede in fondo allo scontrino, fornendo informazioni su calorie, zuccheri, grassi, grassi saturi e sale. E invece di visualizzare i valori numerici, lo scontrino spiega se il valore nutrizionale totale di quella spesa è basso, medio o alto, utilizzando i colori del semaforo a seconda del via libera oppure attenzione, o utilizzando i caratteri in grassetto come indicatori. Quindi una valutazione complessiva, un voto alla nostra spesa per dirci quanto sia sana. Esattamente, e anche punteggiando la nostra settimana di piccole riflessioni, ma in un modo, come dire, anche ludico, se vogliamo, però preciso. Il prossimo caso che mi hai segnalato, Sabrina, racconta della forza che possono avere alcuni brand di settore, tanto da trasformare i prodotti stessi in portavoce, portabandiera di campagne sociali. Dall'Inghilterra, con il primo caso, ci trasferiamo negli Stati Uniti, dove proprio nel mese di maggio è stato lanciato un nuovo gusto di Ben & Jerry, un'edizione limitata di un nuovo gelato, si chiama Empower Mint, ma lanciando con questo gusto, con questa edizione, una campagna sociale. È un'iniziativa lanciata in collaborazione con la campagna Democracy in Your Hand, quindi la democrazia nelle tue mani, con base nello stato del North Carolina, per incoraggiare le persone a votare e a portare anche consapevolezza alle leggi restrittive di questo Stato in materia di voto, che di fatto rendono molto più difficile la partecipazione e far sentire la propria voce agli elettori con basso reddito e alle minoranze. Quindi Ben & Jerry ha preso posizione non soltanto lanciando un'altra edizione, un altro gelato di gran gusto, ma allo stesso tempo sottolineando in un comunicato come questo gusto andrà a beneficio di questa organizzazione dedicata a garantire l'uguaglianza politica, educativa, sociale, economica e i diritti di tutte le persone. tesa anche a eliminare l'odio razziale e la discriminazione. Beh, è un salto notevole, non è solo la confezione con il messaggio da diffondere stampato, ma è l'identificazione del messaggio con il prodotto stesso, è un passaggio ulteriore. Assolutamente, e in questo caso tutto, come dire, se vuoi il packaging, ma anche la comunicazione sul sito e le altre forme e altri canali, come dire, anche attraverso sistemi tecnologicamente avanzati, non allontanano ma rafforzano il contatto diretto con le persone, in questo caso da parte della brand, del prodotto, del messaggio, sia per finalità di consumo sia per queste campagne educative e sociali. E proprio intorno al packaging dei prodotti alimentari si sta concentrando molta innovazione, molte le sperimentazioni alla ricerca anche di funzioni altre, chiamiamole così, Sabrina, per i contenitori. Esattamente, recentemente c'è stato un caso, un'agenzia pubblicitaria brasiliana, si chiama Almap BBDO, che ha lanciato in rete delle immagini di un concept per una nuova bottiglia che mostrava l'etichetta Pepsi Light. Sebbene questa bevanda non sia la più indicata per chi fa sport, chi vuole mantenere una dieta sana e salutare, la bottiglia era disegnata, prevista, progettata come un manubrio da 2 kg, di quelli che si usano in palestra. L'agenzia ci ha tenuto a far sapere che la bottiglia manubrio non è mai andata oltre la fase di testing, quindi non è mai stata né prodotta né distribuita, ma è già un'idea, un pensiero che può essere utilizzato dall'azienda magari per altre bibite. Quale che sia il contenuto, ci è sembrato interessante vedere come questo tipo di sperimentazione può toccare ambiti e settori diversi. Naturalmente l'agenzia e l'azienda e la campagna che si è mossa attorno hanno spinto a far sottolineare, informare i consumatori che laddove qualcuno volesse utilizzarla deve prima comunque eliminare, consumare la bibita e poi riempirla di acqua e sabbia per evitare piccoli incidenti, aprendo la bottiglia subito dopo averla sollevata un centinaio di volte. Beh, insomma, una bella esplosione in quel caso, un consiglio sicuramente saggio. Come sempre, tutte le immagini sulla nostra pagina Facebook. Nell'epoca della sostenibilità non tutto è stato fatto, nel packaging c'è ancora spazio per guidare il cambiamento. Sabrina, il prossimo caso lo dimostra. C'è molta sperimentazione, un piccolo caso ma molto interessante. Qui ritorniamo negli Stati Uniti, in Florida, la fabbrica di birra Saltwater ha sviluppato una ricerca e anche proprio la possibilità di produrre un anello di imballaggio alimentare per le sue confezioni da 6 lattine di birra. Quindi diciamo l'anello che racchiude e tiene insieme le lattine, normalmente di materiale plastico, in questo caso è ottenuto, composto da materiale organico riciclato, proveniente proprio dal processo di fermentazione di orzo e grano. Quindi gli anelli eco-friendly sono biodegradabili al 100%, permettono una decomposizione naturale non nociva, ma soprattutto ci tengono a comunicare che possono fungere da alimento per i pesci, che possono realmente nutrirsi di questi anelli invece di rimanerci impigliati come purtroppo spesso accade. Il packaging ovviamente come realizzazione è più costoso da produrre rispetto ad altri, ma l'azienda punta a far acquisire il brevetto, le conoscenze per questa produzione anche da parte di aziende più grandi, abbassando quindi i costi di produzione finale e permettendone la piena diffusione sostenibile sul mercato. In questo scenario si approcciano al mercato del cibo e alla grande distribuzione anche dei player insoliti. Siamo all'ultimo caso. Il player questa volta è Easy, lo conosciamo come EasyJet, la nota compagnia aerea che è entrata da febbraio a far parte della grande distribuzione, lanciando a Londra un supermercato low cost. Lo ha aperto in un quartiere popolare vicino Londra, Park Royal, ha debuttato Easy Food Store. È stato immediato il successo per questo supermercato, che offre ogni tipo di prodotti a soli 25 pence, diciamo circa 30 centesimi di euro. L'esordio è stato un reale successo, andando anche oltre le aspettative più ottimiste, tanto che il 4 febbraio, pochi giorni dopo l'apertura, il negozio è rimasto chiuso per l'intera giornata a causa dell'esaurimento dei prodotti. Devo dire che la compagnia EasyJet la vede lunga da molti anni e già negli anni più recenti aveva inaugurato altre attività nel Regno Unito, dall'autonoleggio, agenzie immobiliari, pizzerie, palestre, alberghi. Quindi anche in questo caso la formula si è rivelata vincente, con l'idea, chissà, anche di aprirne altri di questi centri, di questi supermercati in altre città d'Europa. Beh, del resto a diffondere, a lanciare il modello low cost no frills, all'epoca si diceva, sono state proprio le compagnie aeree, da lì la contaminazione, insomma, a tutti i settori. Grazie a Sabrina Donzelli, alla prossima. Un saluto, ciao. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale, come sempre, in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buonasera agli radioascoltatori. Il tema di questa sera. Questa sera ci concentriamo sui capitani di lungo corso. Ah, che bello. Perché è stata una settimana con due vittorie inaspettate al Festival di Cannes, Ken Loach, e quindi grande regista che ha vinto tra l'altro a Cannes 10 anni fa, quindi anche questo davvero lungo corso, e poi le elezioni austriache con l'inaspettata vittoria, anche se di pochissimo, di Van der Bellen, entrambi personaggi che da molti anni predicano gli stessi valori, e questo credo che sia un'indicazione interessante dei tempi che viviamo. Un'indicazione preziosa per visibilità e credibilità, come spesso tu sottolinei, Francesco. Sì, noi continuiamo a pensare che nella nostra epoca sia più importante la visibilità e sia più importante l'opinione del momento. In realtà queste due affermazioni, ripeto, inaspettate entrambe, dimostrano che chi lavora seriamente per lungo tempo, in questo senso davvero capitani di lungo corso, su un plesso di valori, un insieme di valori molto coerente, alla fine porta a casa il risultato. Ecco, credo che questa sia un'indicazione molto importante anche per i manager, per i marketers e per chi fa comunicazione. E in un'epoca in cui tutto cambia alla velocità della luce, torna anche in qualche modo il tema dei vecchi maestri. Sì, la dimensione, diciamo, della maestria è un altro elemento che in Italia sicuramente dobbiamo imparare a valorizzare. Penso anche ai maestri artigiani, quindi spostandomi nel mondo della produzione, da quello della comunicazione, è chiaro che anche loro devono accettare l'idea che esistono nuovi strumenti, nuove tecnologie. Però in questo senso l'alleanza con i più giovani può essere davvero, anche per il nostro paese, una straordinaria opportunità. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberta Frisani in regia. Essere Avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.